due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotter cazzo, Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascal, non ti vai, stai lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato, perché d'ora in poi vocalist ti attacchi al cazzo. Questa ti costa cara, vedrai quando sarò ospitato ancora in TV, perché tu non lo sai, ma sarò ospitato ancora e non ti dico in che TV, non lo sa nessuno, nemmeno i miei fans, e vedrai che belle figurine di merda, sai come dicono a Napoli? Ti faccio fare un albumino di figurine nerd. Te sei diventato il leccaderettani di Parenzo, quel coglione ebreo schifoso, dell'altro ebreo di Telese, un altro frocio, come Parenzo. Ma la pagherai cara, perché se tu aspetti di beccare, questo è l'ultimo audio che tu becchi alla zanzara, mio, perché d'ora in poi gli audio li devi rubare alle TV dove vado io. Hai finito, Carlangi! Vai a chiamare, vai a chiamare Donato da Varese, Simano da Bari, Riccardo da Roma, che cazzo è? A me, con me è finito, te l'avevo detto, se entro venerdì non mi chiami, te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io lo sapevo già, ma quello te lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello, sai che c'è Cruciani? Che io non ci perdo niente, l'odio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audience. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai, hai capito? Perché me di te, Cruciani, non me ne sbatto il cazzo, hai capito? Che a me, per me non conti meno di una mela scureggia, ok? Perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio cugino, non sei nessuno, e quindi ti mando a fare in culo. Ah, andiamo avanti, andiamo avanti. Scusami la corte, puoi rimettere per favore? Scusami. Ma si occupa di audit, però se ne è presa con te ormai. Certo, presa, ormai. Ma non me ne frega niente, era Mauro da Mantova per chi non lo sapesse. I vocalisti, ma è un pazzo. Scusami dai. La corte. Ma sai che non sapevo che Telese fosse ebreo, non mi risulta. Ma lascia perdere. Ha detto che Telese è ebreo. Ma sì, ma dice qualsiasi cosa. Adesso dirà pure che io sono ebreo. Arriverà a dire che io sono ebreo, per carità, non mi offenderei. Non mi offenderei, però comunque arriverà a dire questo. Scusami la corte, puoi rimettermi per favore quell'audio iniziale, l'inizio della trasmissione, non Parenzo che sta tossendo, ma l'inizio della trasmissione. Ma questo è una settimana, 10 giorni che è così. Spiego, ma vatti a fare visitare, hai la TBC? No, non fermo. Ho avuto tempo. Non me ne frega niente. L'audio, l'audio dell'inizio. I fascisti attaccano la tubercolosi. Due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotter cazzo, pure. E non dico niente. Vuoi dichiarare guerra? No, adesso questo qua io lo manderò in luppa. Ti giuro, guerra? Lo mando in... No, ma che guerra? È una questione normale di educazione. Io non potrei parlare di educazione, naturalmente. Però in questo caso parlo di mutuo riconoscimento. Come dire, mutuo riconoscimento. Ma a questo punto iniziamo direttamente alle 19.15. Beh, bravo. A proposito di mutuo riconoscimento, di rispetto, di cui non ce ne frega una mazza, ovviamente, però il signor Michiché vi voglio fare sentire. Vi ricordate, ti ricordi, Parenzo, il signor Michiché? Michiché è anche una brava persona, io l'ho... Una persona molto simpatica, eccetera, molto, eccetera. Molto, quello molto del 61-0, ti ricordi che era 61, in 21, Sicilia, 60, 40, non mi ricordo, 41, i collegi, Sicilia, quanti certo, erano, non mi ricordo. Il plenipotenziario di Forza Italia in Sicilia, quello che fece il grande vittoria. Ritorno, è tornato Michiché. È il team maker dell'operazione Musumeci, sostanzialmente. Vabbè, adesso non gliene frega un cazzo a nessuno di queste cose di politica. politica interna. Due. Il kingmaker dello che ha voluto, allora, che la caduta. Signor Michiche, signor Michiche ha paragonato il Movimento 5 Stelle all'AIDS. All'AIDS. Sentite, amici grillini. E scatenatevi contro il signor Michiche. Beh sì, ci chiameranno in molti scatenati, giustamente, contro il signor Michiche, che per carità, tutti mi rispetta, persona simpatica. Però, amico mio, chi è che ha trascinato la Sicilia nel baratro totale fino adesso? Anche la tua forza politica, che ha governato in Sicilia per una vita, non puoi dire noi non c'entriamo un cazzo con il disastro, con la rovina della Sicilia di adesso. Questo, permettimi, caro Michiche, ti conosco da tanto tempo, permettimi di dirlo, Noi qui non è che facciamo sconti, vai. Il momento di protesta è sacrosanto. Che i 5 Stelle siano spuntati a un certo punto è forse addirittura un bene. Io ho paragonato al concetto dell'AIDS quando c'era il libero amore, cioè c'è un momento che c'era un casino immaginabile, scopavano tutti come i matti, è spuntato l'AIDS e li ha frenati, no? Ma è stato l'AIDS. Ora i 5 Stelle sono come l'AIDS, hanno frenato un momento di grande casino della politica, ma ora fuori dai coglioni ricominciamo a lavorare, perché non è che puoi pensare che i 5 Stelle vadano a governare, perché onestamente la gente questo lo capisce. Che la gente lo capisce, vedremo le elezioni. Però, amico mio, mi metto 5 Stelle. No, la metafora è molto semplice. Se non l'avete capita, ve la spiego. Ma sicuramente molti di voi l'hanno capita, perché siete persone intelligenti. Che ne dica Parenzo? Il problema è molto semplice. Quelli che ascoltano, sicuro. Allora, lui dice a un certo punto la politica era diventata anche per colpa tua, Michiche, perché non è che eri su Marte, no. Era diventato un disastro. No, gente che ruba, eccetera, eccetera. Sono arrivati 5 Stelle che, come la AIDS, fecero, come dire, scoppiare la paura. La paura, e dunque la gente o si mise ci preservativo. Come metafora, dai, ma non mi pare sta, così. Dai, è una, come, metà, è una, dai, battuta. Come l'AIDS, ma insomma, dai. Nessuno si offende, dai, ma il movimento del vaffa non si può offendere. Sì, quello è vero. Loro non si possono offendere. Ma non sì, posso, nel movimento un comico che ne ha dette peste e corna, voleva la gogna, che voleva lì al vaffa dei. Il processo, i nomi. Il processo per i politici. Dai, non si offende. Processo di piazza. Lapidare, aprire il Parlamento come una scatola di sardine. Non si possono, non hanno titolo per offendersi. L'AIDS non c'è più motivo di farlo, perché ora si ricomincia a trombare tra marito e moglie. Benissimo, benissimo. La metafora è ridicola, dai, anche Grillo che gli ha risposto, il blog di Grillo, qui bisogna distinguere ogni volta tra il blog di Grillo e Grillo, già un'altra follia, e dice e lui faceva uso di cocaina, anche questo non c'entra un cazzo, oggettivamente, non c'entra nulla, beh lui dire? Lo ha detto, cioè, ma, sì, vabbè, ma non c'entra una dire? Mazza adesso, non c'entra una mazza, non è perché quello si è fatto di cocaina oppure ha usato cocaina, non può dire, non può parlare, cioè, può parlare, poi dice, ha detto una cazzata lui, ha detto una cazzata Grillo, dai, diciamola. Ma no, ha fatto una battuta, amici che, su, ma non ho capito, non c'entra niente, dai, io lo posso dire, adesso non c'entra niente, che c'è? Tu fai, sì, il paragone con l'AIDS, ha fatto una battuta e basta, dai. I 5 Stelle non possono dare, si hanno introdotto loro questo linguaggio della politica. Ma infatti lo dico io, amico, lo dico 5 Stelle. E allora basta, dai. Allora, l'altra follia, caro Parenzo, è quella, sì, del tuo amico Fiano. Amico mio. No, Fiano dice amico cose mio, aspetta, fammelo sentire questa mattina da Telese, fammelo riepilogare questa mattina al signor Telese. Che cosa ha detto? Innanzitutto, detto? Sapete che c'è un obelisco con la scritta Dux, no? Sì, come a Roma, no? A Foro Italico, dov'è? Foro Italico, famosissimo, davanti Obelisco, al Coni, no? Bene, scritto Dux. Davanti al Coni. Nessuno, dove tranne la Boldrini. Il dottor Malagò. Esatto, nessuno, tranne la Boldrini, si è mai preoccupato per quella scritta. Tranne la Boldrini, si è mai preoccupato per quella scritta lì. Se ne preoccupa adesso il signor Fiano, che dice che bisognerebbe fare l'abrasione di quella scritta, cioè cancellarla. Ragazzi, siete come i talebani, siete pazzi, siete pazzi furiosi, non si possono fare queste cose. Ma vi rendete conto, a parte che senza quella scritta l'obelisco non esiste, cioè sarebbe una cosa, sì, inutile. No, io su questo non su questo non, spero che sei contro Fiano, sì, su questo. No, contro Fiano no, su non questo, re, su questo. Solo su questo io sei non contrario, ritengo, a questa proposta. Non metto le mani ai monumenti. Benissimo, non, basta, non, sentiamo non li manometto, sentiamo non li manometto, Fiano, sentiamo Fiano. Io sono sicuramente contrario all'abbattimento di monumenti. No, lui diceva solo di abbradere la scritta con riferimento a Mussolini Dux. L'abrasione della scritta è una cosa che è stata fatta in Italia in tanti posti. L'abrasione della sola scritta è giusta. È giusta. abrasione sulla scritta giusta, sì, però è come abbatterlo quel monumento, perché senza quella scritta non sì, c'è. Sì, no, no, no, io non significa sono per un cazzo. Togliere la scritta. Poi no. Vuole chiudere i negozi di souvenir fascisti a Predappio. Questo è molto giusto, questo è giustissimo perché non si può volete fare commercio. Volete affossare l'economia di quel posto, vergognatevi. Un'economia tu e Fiano, vergognatevi. All'odio e sulla memoria tu di un dittatore. Tu sei alla radio di Confindustria, sei a favore dell'economia, a favore certo, del libero mercato, dell'impresa. Mercato, tu vuoi portare sulla strada, mettere sulla strada imprese quelle che fanno i gadget, che non sono imprese, sono dei piccoli negozi di souvenir a Predappio. Sei contro la libera impresa, nonostante quello che dici. La Marcegaglia è un'impresa, ma quali, ma di che parli, ma di che, la Brembo è un'impresa, non quei quattro cialtroni che producono materiale fascista. Anche quella è piccola impresa, piccolo commercio, piccolo commercio. Sei sempre a favore dei potenti come al solito. Ma non dire scempiate. Sentiamo Fiano su questo. Quel mercato lì va chiuso, sarebbe come dire se alla fine tu a Gerusalemme c'è la via Crucis, no? Sarebbe come dire se alla fine della via Crucis, che uno va a fare se uno ci crede, ti vendessero i chiodini per la crocifissione. Ottimo sarebbe, perché no? Ottimo, super. Ma è un gadget della crocifissione, ma è una cosa pazzesca. Ma sarebbe meraviglioso. Sarebbe blasfemo vendere i chiodini ma della crocifissione. Sarebbe stupendo. Allora, stupendo. Così come è sbagliato vendere quella roba lì, che spero che nessuno la faccia, così è assurdo. Parenzo vuole chiudere i negozi di Predappio. Sì, vergognati, sì, sì. Vergognati, ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Vuoi portare sull'astrico quelle persone? Te le porterò davanti una a una. No. Quelle persone potrebbero che gestiscono i negozi di Predappio. La loro impresa. Sei come i vegani. Vendendo. Come no, i vegani, convertire l'economia. La loro impresa vendendo, ad esempio, i libri dei condannati a morte della Resistenza. Ti faccio un altro esempio. Come? Ci sono, ma non gliene frega un cazzo a nessuno, sì, non li venderebbero mai. C'è un libro meraviglioso. Ma chi li vendono? Della Repubblica Sociale Italiana, ad esempio. La storia della Repubblica Sociale Italiana. Potrebbero vendere quella edizione critica, ovviamente. Io accoglierei la proposta del sindaco di Predappio, che ha proposto, al posto di quei negozi, l'istituzione di un museo storico anche in quella città, che ovviamente ha un legame con la figura di Mussolini. Mommez, parlate Pucciac! Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presento La Zanzara. Due minuti di ritardo, a Bari su, c'hai rotter cazzo, Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Too small, sai stas matter after all. Luciani, metti il cerot! Gli devi mettere il cerot a Parenzo! Che sta sempre a rompere i coglioni! Sta sempre a dire metti il cerot! E lo devi tenere per due ore il cerot! Allora, oggi un ascoltatore mi ha mandato una foto in cui c'è un mezzo ubriaco che ha chiamato qualche giorno fa, che è un signore che si occupa di vini di cui non voglio neanche fare il nome. Sì. Mi continua a scrivere. Ma che cazzo me ne frega? Stavo dicendo una cosa che poi mi interrompi. No, perché tu lo conosci bene questo qui, perché l'hai ospitato qualche volta. Ma chi è? Questo Peschini? Mezzo Peschini. Ubriaco. No, non ti voglio neanche dire il nome. Ma chi è? Dimmi chi è. No, poi è un mezzo ubriaco. Scusa, ma dimmi, di il contesto. No, non te lo voglio dire, perché ma per far capire agli ascoltatori di che parli. Siccome sto parlando male del Duce, questo mezzo ubriaco è assolutamente filo fascista. Bravo. Anche lui ha capito, che visto che sta scrivendo, capito? Anche lui ha capito. Sì. Sto mezzo ubriaco. Allora, non è ubriaco, è un esperto di vini, dai, su. Ziliani si chiama, dai. Non lo so se è lui. Un ascoltatore mi ha mandato una foto. No, non credo che sia lui. Sì, sì, è lui. Un ascoltatore mi ha mandato una foto con due birre, la birra dei nostalgici con la foto di Hitler e la foto del Mein Kampf accanto, una del Mein Kampf, una di Hitler. Gadget inutili da geni da assoluti. Geni ma da proibire, cioè una, ma da proibire ma, cosa, ma, un'economia. Ragazzi, ma quale ma proibire? Questa qui è che è un souvenir. Vuoi di distruggere che cosa? L'economia, vergognati, dai. Ma uno come fa a costruire un un'altra business notizia su questa roba qua? Va bene, va benissimo anche comunque, questo. Comunque, per carità di Dio, me ne frega niente. Allora, è stata chiesta. Beh, ragazzi, ogni io tanto sono c'è per un giudice. I negozi di Predappio, ogni tanto c'è un giudice, come si dice una volta, a Berlino. chiesta l'archiviazione per i dipendenti della Lidl che chiusero in gabbia due rom. Questo. Non fu sequestro. Ragazzi, dico, abbiamo vinto anche qui. Abbiamo vinto. Cosa? Abbiamo vinto. È fatemi sentire di nuovo. Abbiamo vinto anche qui. Non ci fu nessun sequestro di persona. Parenzo, avete crocifisso. Hanno crocifisso. Guarda, hanno che licenziato. È la Lidl che li ha cacciati. Bene, è peggio. La Lidl che bene, li ha cacciati. Adesso li riassuma non subito. Giudice, li riassuma giudice. Subito. Facessero causa. Gli devono fare un culo la così. Lidl comunque ha amico, ritenuto. Amici miei della Lidl, no, dipendenti, no. Fategli un culo così la a questi. La Lidl ha comunque Vergogna. Ritenuto che la loro immagine venisse lesa da quei due dipendenti. No, ma lui quindi prende la parte. Prende le parti della multinazionale Lidl. Lui prende le parti della multinazionale contro due operai a 1200 euro al mese licenziati per uno scherzo. Ma se uno sbaglia, vergognati, sbaglia. Vergognati. Sul lavoro non è che anche fai gli qui scherzi. Vergognati, devo sul cambiare lavoro. Registro, adesso però vergognati. Dirai, adesso dirai pure che i carabinieri hanno fatto uno scherzo. Ma cosa no? c'entra? E quindi... è una questione diversa. A proposito di carabinieri, comunque ti devi vergognare, veramente. Una multinazionale come la Lidl multinazionale? Ma licenzia due persone sbagliando perché non ci fu nessun sequestro di persona. Perché ritiene che ha leso la loro immagine. E tu sei dalla parte dell'azienda contro questi due operai a 1200 euro al mese che hanno fatto uno scherzo. Gli devi fare, gli devono fare un culo così. Devono fare un culo hanno così. Hanno fatto una mischerata sul posto che di lavoro. Che mischerata, gli devono fare un culo così, dai, su. Basta, non se ne può più. Due che fanno uno scherzetto a una rom, peraltro consenziente secondo molte versioni, anche secondo la stessa rom che non mi pare che abbia fatto denuncia, assolti. Nemmeno processati, no assolti, nemmeno portati in tribunale. Non rinviati a giudizio, cioè non c'è nulla. E quelli sono stati licenziati. Licenziati anche per colpa tua di questa campagna vergognosa che hai fatto partire contro questi due operai. Me la ricordo bene. Questa campagna che hai fatto. Lidl ha ritenuto che le desse la loro immagine, anche solo che il filmato fosse finito in rete con le immagini della Lidl. Capito? Me lo ricordo bene. Certo, ma ha fatto benissimo quell'azienda. Emanuele da Bergamo, dai, Emanuele, vai. Ciao, innanzitutto complimenti perché siete partiti. Vai, dimmi, vai, dimmi. Allora, Gaston Butul è un autore che. No, ragazzi, ha però noi siamo, partiti fortissimo, ma tu ci hai fatto già due coglioni già così. Coglioni. Che cosa vuoi da noi, Emanuele? Cosa dice vuoi? Dimmi, cosa vuoi? Lo youth bulge, cioè la, come dire, il surplus di maschi in una società destabilizza le società. Questo è buono, questo è buono. Dunque, allora? È anche quello che succede da noi con il fenomeno migratorio. Dici che molti maschi che arrivano sono talmente affamati di sesso. Sono talmente affamati, direi, di figa, diciamo, quella è la verità, sono talmente affamati, talmente testosteronici che non ce li possiamo permettere, questo tu dici? Che destabilizzano soprattutto se hanno un accesso difficile al sesso anche da parte delle professioniste del sesso. Dunque perché tu dici che dovremmo aiutare gli immigrati a scopare? Sostanzialmente è importante a questo punto liberalizzare la prostituzione. Ma questo, vabbè, quello la legalizzazione, d'accordo. Cioè, la legalizzazione è un'altra. Cioè, tu dici dovremmo assistere sessualmente i migranti. Dei prezzi calmierati. Per i migranti. Esatto. Bravo, Daniele da Padova. Già hai detto quello che devi dire. Daniele da Padova, dai. se no è troppo, eh. Daniele, vai, dimmi. Gianni, buonasera. Vai, avanti tutta, vai. Rosani sei il numero uno. Dai, hai già perso tempo, dai. E ride. Il Veneto ride. Dico sì perché sei il numero uno. Vabbè, d'accordo, ma vai avanti. Ho sentito Fiano stamattina, sì. Ma con ecco tutti i problemi che abbiamo, ci perdiamo sulle cazzate dei gadget. Bravo. Perché se uno è gadgettino, allora diventa fascista perché vede il gadgettino. È una cosa pazzesca, veramente. Dai, abbiamo tanti problemi. E il Parlamento apre dopo 39 ma giorni niente, con la legge Fiano. Ma non è vero, la siete ridicoli. Già da tempo. Libertà, ma cosa vuol dire? Libertà di incitare al fascismo. Libertà, chi se ne frega? Al comunismo, al nazismo, al Ku Klux Klan. Libertà. No, il comunismo ha fatto più danni dei fascismi. Non è anticostituzionale. Libertà. Parenzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara. Ah! Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta La Zanzara. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo non mi interessa. Sei comunista, sei ebreo e sei pure musulmano. Parenzo, ti voglio carico! Quel nano malefico. Parenzo, sei un coglione. Le americane sono venute in Italia per adescare due carabinieri. Se li sono scopati e poi li hanno ricattati per riscuotere l'assicurazione. Coglione che non sei altro. Che invece Burungu se l'è scopata la polacca, stupido. Non so se avete sentito quest'ultimo fenomeno, le sue certezze. Le americane sono venute in Italia per scopare i carabinieri. Non so se hai sentito. Sì, ho sentito, è come sono delle porcherie che non andrebbero neanche mandate in onda. No, anzi, devono essere mandate in onda. Anzi, no, si mandano in onda, bravo, però poi bravo. In concomitanza, così vedi qual è lo schifo umano, mandi il numero della persona che chiama alla procura della Repubblica. No, non devo essere io. Se la procura vuole il numero di questa persona, sì. Non capisco quale reato ci sia. Al limite, i legali delle americane potrebbero querelarlo, ma noi siamo qui. Quando ci chiedono dei numeri di telefono, secondo le procedure della giustizia italiana, abbiamo sempre dato i numeri di telefono. No, lo so, secondo certo, le procedure della giustizia italiana. Noi abbiamo collaborato con le procure di tutta Italia. Io non sono come la Merlino, che pensa che il web debba diventare una sala da tè, no, ma la Merlino dove la gente sorseggia il tè. Sorseggia il tè, dice, sta facendo una campagna straordinaria. Ma è un'ipocrisia. Odio l'odio. Dunque, odi l'odio. Odi l'odio. Certamente. Odi l'odio. Il diritto a odiare. Che è un paradosso clamoroso. Ma dai, certo, su. Chi odia ti distrugge. Ma lei ha fatto un'operazione molto interessante, perché ogni giorno manda in onda totale. No, è giustissimo già da fatto, fare invece già fatto. Per spiattellare in faccia lo schifo di queste persone, ma individuarle basta. Ma infatti anche si vanno denunciate a denunciare. Vanno individuate perché questo schifo dai. Deve finire. Ma schifo. Che finire cosa? Deve ma che volete? Finire, trasformare il web come finire. Un posto dove si sorseggia il tè, si no, discute di massimi sistemi. Non si può offendere come non fosse Fiorella da Udine, vai. Se una cosa Fiorella semplice da non deve essere pronto? Più buonasera, semplice offendere, ma capito? Già non è semplice, tu puoi essere denunciato senza bisogno di campagna. Non deve dai. Essere semplice odiare, Fiorella, capito? Vai. Questo è il punto, Fiorella, vai. Dimmi Fiorella, pronto? Dimmi Fiorella. Pronto? Fiorella chi? Pronto? Fiorella Mannoia buonasera. Conosco io, il resto no, non me ne frega Udine, niente. A me ne frega no, niente. Io non annoio mai. No, questo vediamo. Mai. Io conosco solo Fiorella Mannoia. Allora, vediamolo, dici sempre a tua sorella, sempre a lei prima. Cioè, che non c'è, ah, ma lei è Fiorella da Udine, quella di prima dell'estate, sì, prima delle feste. Sì, significa esatto. Fiorella, tu non te la ricordi. Mi è rimasto in testa per tutta l'estate. Come fai a ricordarti tutta la melma? Come fai a ricordartela? Per tutta l'estate mi è rimasta in testa Fiorella da Udine. Ma perché cos'è, una prostituta? Mi ha fatto anche un po' arrapare la signora. Ma perché cos'è, una prostituta Fiorella da Udine? Una prostituta? Non lo so. C'è tua madre. No, ma non lo so io chi sia lei. Guarda com'è gentile. Ma perché? No, perché? Io capito, pensavo fosse quella come si chiama? Tacci. Come si chiama quella da Udine che chiama sempre? Calma, Fiorella, calma. La prostituta che chiama da Udine. Tacere. Ah no, è da Pordenone quella. Come si chiama la prostituta aspetta. Che chiama? Ragazzi, Fiorella, calma un attimo. Allora, quella di Pordenone. Lucia da Pordenone. Gli hai già risposto. Gli hai già risposto. Lucia da Pordenone. Io l'aspetto fuori allo studio. Allora, sentiamo questo altra signora, diciamo. Sentiamo questa signora. Questa signora maestra, sentiamo. È una professoressa. E mi ricordo anche che piuttosto le tolgano l'insegnamento. Speriamo le tolgano l'insegnamento. Esatto, piuttosto. Dove insegni, Fiorella? Socialista di destra. Dove sono fortunato che i miei figli non vanno a Udine, altrimenti l'avrei già denunciata questa qua. No, i suoi figli hanno una. Allora, l'avrei già denunciata provi... sta qua. Allora, lei l'unica parola che sa dire è denunciare. Certo, denunciare, se una si proclama sa. Fascista ed è una insegnante, a me fa schifo. Di destra. Ma lei fa schifo e basta. Che succede? Aspetta, cambia un attimo, Fiorella. Schifo non me lo dice. Fiorella, ma è evidente che fa schifo. Guardi la mia foto e poi vede se faccio schifo. Sei una bella figa. Sei una bella figa, Fiorella. Tanto per cominciare. Sei una bella figa. Anche bella, ma se una oh, ragazzi, vi calmate un attimo. Allora, ma, Fiorella. Ma non mi fa parlare. Allora, calma guarda, un attimo. Sei una bella figa o no? Allora, sono una bella persona, una bella donna. Bella donna, poi... va bene. Da sola, vedi? Sì. Vabbè, viva d'accordo. La modestia, ma... Scusami, Fiorella, quanti anni hai che non mi ricordo? Ho 47 anni. 47 anni, è insegnante in una scuola primaria, sì, e mi sembra, sì, lascia perdere, socialista di destra. Tu sei un po' ammiratrice del fascismo. Io sono ammiratrice del fascismo, laddove, sì, ci ha rappresentato nel miglior modo. Il Duce per te è uno statista importante, è stato importante. La segnaliamo al Ministro dell'Istruzione. Un patriota, sei fascista, allora, sei fascista, diciamolo. La segnaliamo al Ministero dell'Istruzione. Io devo pagare i contributi per pagare, sì, la pensione a quel demente che ti accanto. No, sì, veramente, no, lei purtroppo fastidio. Non mi paga la pensione, grazie, me la pago io da solo. Me la pago io da solo con un fondo privato, cara, fondo privato. Calma, calma. Non ti hanno rinchiuso in un manicomio, in una clinica. No, veramente ha lavorato. Se mai al confine, se mai al confino, ma all'epoca sua. Ma per l'epoca sua al confino. Fiorella, calma, perché hai chiamato stasera? Voglio capire perché hai chiamato. Ecco, perché allora, hai chiamato? Innanzitutto volevo salutarti e ridarti, vabbè, il benvenuto. Questa fascista, la fascista che saluta Cruciani. Vabbè, però adesso non c'è bisogno di queste parole, lo sai che non me ne frega niente. Vai avanti, insegna, questa insegna. E poi volevo ribadire il concetto che, diciamo, la mia simpatia per gli uomini di destra. Iniziato l'anno scorso. Ah, per i maschi, continua, no? Per i maschi. Sì, sì, sì, perché copulano, sì, meglio, e perché ragionano meglio, e perché portano due neuroni. Ma copulano meglio, sei sicura che tu scopano meglio? Tu la vorresti cruciare come insegnante di tua figlia, questa signora? Ti voglio chiedere non credo questo. Che insegni queste cose a scuola. No, ma una così, bravo, una mezza spostata Cruciani. Come questa, però. Ma che c'entra? Ascolta, che c'entra? È una mezza spostata, ma una così. Figlia quel depravato. Ma una che chiama, è depravato no? Una che chiama in radio per dire queste cose è una mezza spostata. Che c'è accanto, che grazie a Mussolini lui percepisce la pensione. Non credo, non grazie a Mussolini, perché, cara. Sì, grazie ai contributi, guarda, che verso, cara. Non scusami, Fiorella, no, però calma, calma. Ignorante, la io ho un fondo privato. Io vorrei tornare. Fondo privato, io, sciocca. Istituita, sciocca, Benito, Fiorella. Mussolini. Sciocca, Fiorella, sciocca, Fiorella, ho la però, pensione chi è che privata mi dice io. Sciocca, un demente, l'offesa io. Si misura dall'offensore. Sciocca, Fiorella, io ho la pensione privata. Se me lo dice Parenzo, mi ha fatto un complimento perché è una capra. Questo capra, duetto, capra. Questo duetto è meraviglioso, però vorrei arrivare al dunque. Cara Fiorella, tu hai, sì, detto sei un'ammiratrice del fascismo, ammiratrice di Mussolini, sei professoressa, nessuno ti rompe le sono scatole. Sono una socialista di destra. Vabbè, hai detto che laddove sei fascista, Mussolini. Dai, diciamo, tagliamola. Sono fascista e quindi mi volete denunciare. Parenzo, in quanto professoressa, sì, a scuola, sì, dove, sì, esatto, dice che non puoi insegnare perché, no, ti dichiari, brava, fascista. Esatto. Parenzo, se avesse studiato il socialismo, sì, di destra, questo era una testa che ragionava. Si Fiorella, perché Fiorella, solo per dividere le orecchie. Però scusami, Fiorella, perché secondo te i maschi fascisti o di destra scopano meglio? Scusa. Perché ho fatto un sondaggio. Cioè, hai scopato con gli uni e con gli altri? Chi lo sa, no, col comunista, ma anche, piuttosto. Beh, che ne sai, allora? Allegra la signora, mi col comunista, piuttosto, guarda, e come fai a saperlo? Con una donna e non con un comunista. Ma come fai a saperlo, Fiorella? Allora, che Perché io chiedo prima di che partito è. Ho capito, però non sai se scoprono meglio o peggio. Scusa, allora quelli di sinistra, allora, come fai a saperlo? No, ho se vogliamo colleghe. Stare sul tuo ragionamento, ho chiesto le mie colleghe. È intelligente sta maestra, però. Ho chiesto alle mie colleghe. Grazie, Cruciani. No, ero io, era ironico anche. Comunque, Fiorella. Tu, Parenzo, Fiorella, sei arrapante assai, sei diventato uno degli idoli di questa trasmissione, degli uomini di questa trasmissione. Sì? Mi hanno chiamato in tanti, mi hanno scritto in tanti: Fiorella, io farei qualsiasi cosa, la vorrei incontrare, è stupenda, meravigliosa, è una donna fantastica, dove la posso sono trovare? Sono felicemente impegnata. Esatto, noi felicemente. Però bisogna ogni tanto bisogna anche tradire un po'. Ogni tanto bisogna. No. Come da, con un cammello. Come con un cammello? Ha detto Parenzo che sei ma ti accompagna. Ma lui con la cammella, la conosci la barzelletta? Mantenetemi sta cammella, ma manco la cammella lo vuole. Com'è la barzelletta? Scusa, com'è la barzelletta? Vabbè, cioè, quello è come il pazzo con la liquirizia, no, Parenzo? Quello che si è fissato, oppure cioè, ci sono, sì, barzellette da associare a Parenzo, te ne potrei raccontare una al giorno se vuoi. Beh, questo potrebbe essere un'idea. Ciao Fiorella, ciao. Ok, ciao. Francesco dalla provincia di Ancona, vai, su sì, queste buonasera. Note, non ci fare annoiare, siamo carichi, vai. Assolutamente no, vai, assolutamente dimmi. Io ribadisco il concetto di destra, cioè? Non ho capito. Essendo stato uno che è passato per la sinistra, vi dico che adesso mi fanno veramente schifo. Sì, ma che c'entra questo quelli con di sinistra che mi fanno molto schifo. Ma che c'entra questo con la vicenda dei Nulla. Cimeli del Duce? C'entra nel senso perché? Che io vivo la storia del terremoto, dei terremotati. Sì, allora? Dovete sapere. Sì. Se voi andate verso Avezzano, vi rendete conto cosa è stato il periodo fascista per quella zona. Cioè, tu stai dicendo che conduce la situazione... Ma chi se ne frega? Nettamente diversa. Ma chi se ne frega? Mi permetto di dire che... Vi dico solo una cosa, vi dico... Non mi interrompete, per favore, perché voglio dire delle cose veramente non vere. Siamo nel ventennio, cioè, quali sarebbe? Non quali? Siamo primo nel ventennio, punto, quindi punto, si può interrompere quanto mi pare. Un presidente della regione Marche, terremoto, successo il 24 agosto, terremoto, 300 morti, quasi, allora? Lui disse, però... ci sono i danni a Urbino. Pensate, no, però solo Francesco, questo, al di là di questo, un coglione di presidente, no, però, che, Francesco, dice, scusami. Che dice che c'erano i danni su quando c'erano 300 morti da piangere. Ma dove? Che, ad Amatrice, che cosa vuoi dire tu? Cioè, che allora cosa vuoi dire? Italiani! Italiani! A quei tempi erano lasciate aperte. Certo, guai, come no. Certo. Guai, ma guai, per forza passava... i criminali erano al governo, è evidente, signori, no? I farabutti erano al governo, abbiamo, per forza non c'erano i ladri, no? Una classe politica che se facessimo il cambio di congedamento e le mettiamo dentro, abbiamo fatto solo del buon senso. Italiani! Abbiamo messo... Quindi, agli cioè, tu dici tutti i politici di adesso. A destra, votate. Vabbè, a lascia perdere. Tu... Ma scusa un attimo, Francesco, ma stai zitto un attimo. Tutti la classe politica di adesso, cioè i parlamentari di adesso, campi di concentramento. Campi di concentramento. Campi di concentramento. Campi di concentramento. Diciamo una soluzione rapida. Questi signori che sono dei ladri, vai. Sono ladri, pubblicità, non sono politici. Pubblicità. Questi sono ladri. Lasciati un Parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La Zanzara. 2 minuti di ritardo. A Bariso c'hai rotter cazzo, eh. Ma e c'è Barisoni? Parenzo, te la coccia del merda, tu vatti da Romare, camin! Parenzo, ma se una riprende con un telefonino quelle due americane là, come fa a dire che è stupro o un rapporto non consenziente? Una che riprende con il telefonino, ma dai! Ciao Parenzo! Oh, anche ieri se ne sono fatta un'altra, eh! Ah, la turista finlandese, il bengalese... Mica Parenzo, tutti i giorni. Dai, dai, che stasera voglio sentire un po' di cagate. Ma mi domando io, ma te non ti inculano mai, sti cazzo di... Ma vabbè che sei brutto e fai cagare. Non me lo dico che devono inculare tua moglie. Però a te una bottarella, eh. Speriamo più presto, ciao. A questo gioco al massacro io non ci sto. Io veramente resto allibito, cioè resto allibito dal fatto che qualcuno si augura il numero di questo. No, numero. Ma io queste cose le mando in onda apposta per dimostrare che alcune persone sono ridicole. Posso fare la tua difesa in questo caso? Cioè, Davide non si augura lo stupro di nessuno. Diciamolo chiaro e tondo, non è che si augura lo stupro di qualcuno. Cioè, ma questo tu prova a pensare, io in minimissima parte, ma prova a pensare alla Boldrini, no? Alle offese che quotidianamente riceve nulla. Per le cose, scusami, che dice, niente, incitano a farle male, a stuprarla. Guarda, posso dirti una cosa? Non c'entra niente. Quando questi imbecilli chiamano e dicono portateli a casa tua, riferito agli immigrati, non dicono una cosa così dissimile da quando, ad esempio, mi augurano di essere violentato o augurano del male. Cioè, sono diciamo, è molto più grave ovviamente, no? Incitare allo stupro di una persona. Ma il concetto è analogo, ci sono idioti allo stesso livello, perché pensano di risolvere il problema, perché se tu difendi il migrante dice portateli a casa tua, perché sei tu che te ne devi accollare la cosa. Cioè sono idioti uguali, l'argomento è identico, è lo stesso. Certo è molto più violento questo, sì, ovviamente, quindi verrà denunziato. Ma questo adesso è un cretino, questo è un cretino. No, no, ma è deve pagare, questa gente qua deve pagare, deve pagare con i carabinieri che sono, i carabinieri forse meglio di no, la polizia che suona, meglio di no, i carabinieri forse, la polizia che suona a casa loro, quello sarebbe molto meglio, i carabinieri. Allora, intanto la russa alla Camera, grande show di La Russa contro la proposta di Fiano, sì, di punire la propaganda dei cimeli fascisti, eccetera. Che è vietata non solo la distribuzione, eccetera, eccetera, ma anche la gestualità che richiama. Per cui, da ora in poi, state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Quando camminate, state attenti ad accentuare il mento. Se voi accentuate il mento, potete essere passibili di 2 anni di galera, perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna! Devo dire, ragazzi, che è anche complicato dare torto alla russa. È complicato, no, perché questa roba qui crea caos, giustamente, crea caos, tribunali caos che non sanno quando è propaganda, quando non è propaganda. Beh, è semplice, siete, no? Ridicoli, siete la barzelletta d'Italia in questi giorni. Tu, Fiano, per carità, bravissima persona, siete la barzelletta d'Italia. Guarda, vi fate prendere per il culo pure dalla russa. Ma la russa la vi fate prendere per il culo persino dalla russa. Questo ma è cosa il me ne punto. Frega, ma non c'entra niente. La russa fa le sue messe in scena ridicole. Ma che ridicole, dai. Senti, la russa che dice che c'ha la foto del padre con la divisa fascista. Vabbè. Io che ho la foto di mio padre in vestito con la divisa da fascista, dovrò nasconderla quando verrà lei a trovarmi, perché altrimenti incorrerei in un reato grave. L'onorevole qui a fianco a me, che ha il nonno che ha nella foto del cimitero la divisa fascista, dovrà cambiarla, perché sennò bisognerà riesumarlo per vedere se anche la divisa fascista nella bara. Grazie per questa legge, ci faremo la campagna elettorale. Grazie. Con la gente di buonsenso. Sì, devo dire che le ipotesi che sono state, come dire, testé annunciate nulla, probabilmente non costituiscono reato. Ma è normale che si faccia propaganda anche contro la follia di Fiano. È una follia, siete una barzelletta. È una zappa su tu, Fiano, quelli che pensano di proibire il vino fascista, i negozi di Predappio, queste robe dicendo qui, che sono folklore puro, sono puro folklore, non c'è nessun pericolo di nulla. Fate voi volete, tu vuoi la vittoria chiamano della russa. La realtà è che tu vuoi la vittoria in carrozza della russa. Ma sì, cosa dici? Me ne frega niente. Fanno la campagna elettorale. Ma questa è una battuta che ha fatto, è evidente. Marcato, no? È però arriva Marcato. Cosa vuoi? Ecco, Marcato Lega buono. Nord. Un altro questi buono. Qui che arrivano, gli si sta parlando di stupri, naturalmente, ovviamente il programma è dalla vostra parte. Questi qua che arrivano, che cosa hanno al posto degli spermatozoi? Quinta colonna, senti. 4 su 10 stupratori sono stranieri, 4 su 10. La cosa che mi domando io, ma sta gente che arriva qua al posto degli spermatozoi, cos'ha? Dei barracuda? E non capisco. I barracuda. Mi piace questa metafora dei barracuda, Davide? No, non mi fa né caldo né freddo, ma questo Gasparri, che dice? È Marcato. Gasparri dice: noi vogliamo combattere. Ma posso dirti, è veramente, anche da sentirlo, è ancora peggio. Ma come si fa a parlare degli spermatozoi degli immigrati? E dei carabinieri? E degli spermatozoi dei carabinieri? Gasparri, cioè, ragazzi, ma l'uomo è bestiale, sia esso migrante, cinese, allora, giapponese, carabiniere, poliziotto, il signor Gasparri, il signor Gasparri, che vuole però la radiazione per i 2 carabinieri di Firenze. Perché dici Gasparri in questo modo? Gasparri quasi afflitto, dici, sì, Gasparri. Perché ormai sono con le mani alzate, guarda. Mi vedi anche nella webcam. Quando sento Gasparri io ormai alzo le mani. Poi Gasparri è sempre così riservato, non va mai in televisione. Gaglione, vero? Voglio dirti questo. Io ho avuto tantissima fatica a ospitare l'area che tira quest'estate Gasparri. Infatti, una volta gliel'ho anche detto che ha tradito il suo tradizionale riserbo ed è venuto in televisione. Si è messo a ridere anche lui, perché chiaramente sapeva, no? Vabbè, che vuoi, è in campagna elettorale. Ha tradito il suo tradizionale riservo ed è venuto in televisione. Anche questa volta, mi pare che anche stamattina abbia tradito, esatto, il suo tradizionale riservo. Oltre, oltre a dire che ci vuole la radiazione per la due carabinieri di Firenze, se fossero... E questo lo sappiamo tutti, benissimo. Combattiamo anche la trasformazione delle città in sballo. Ora mi posso permettere, caro Gasparri, che la cosa grave è lo stupro, non le città, ecco, che secondo lui si sono trasformate in città dello sballo. A parte che lo sballo è positivo, non succede nulla con lo sballo. Cioè sì, succede quando uno è molto alterato. Basta, però le città dello... macchina, diciamo. Sì, le città dello sballo attraggono molti turisti, attraggono molti giovani che spendono, escono, spendono, ma non c'è niente, c'è di grave. C'è gente che va a Amsterdam non solo per vedere i musei, ma anche per farsi una cannetta, ad esempio. No, ormai non è una ormai città lì della... hanno complicato la vita pure, sì, a queste cose. Appunto, Gasparri, sentiamo, vai. Secondo me questa elegia, questa descrizione delle città italiane, il divertimento, lo sballo, andiamo a combattere anche questo fenomeno. Lo stupro merita le punizioni drastiche, ma questa trasformazione delle nostre città in questo modo aumenta il rischio, aumenta il rischio, perché persone più esposte, Gasparri, più deboli, contro, cioè, il turismo italiano, no, sono contro, no, contro il... Ovviamente non c'è nessun nesso tra stupri e sballo. Zero. Meno male. Zero assoluto. Meno male, no, ma diciamolo chiaro. Ricordato. Zero meno assoluto male. Tra stupri e sballo. Il nesso è zero. Meno male. Zero. Meno, cioè, non male. C'è nessun legame, nessuno. Ragazzi, comunque mancano tre giorni. Oggi è il 12, mancano tre giorni al 15 settembre, che tra l'altro è anche il mio compleanno. Ed è la data. Ed 51 o 52? 51. Sono. È la data. È la, no, 51 ti dico. È la data. Che cosa? 15 settembre 1966. Ma cosa aspetta, fai? Aspetta. Vai in un bordello, mi per fai, il capire. Magari. Per, mi fai, scusa, mi fai dire una cosa. Il 15 settembre cosa accade? Il 15 settembre, vergogna delle, e aggiunge vergogna a tutte le vergogne degli ultimi anni, dei politici, eccetera, scatta il vitalizio per oltre 600 deputati di prima nomina. Oh, quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura. Cosa, scatterà, ovviamente non lo ma prenderanno, non lo adesso. Ecco, brava, scatta il vitalizio. Anni lo, ma non ti sorge il sospetto che questa legislatura non si sia interrotta anche per questo? No, figa, anche per il fatto, molti grillini, ma di questi capirà, qua. Ma chi, eh? Se ne frega, anche se fosse così, ma chi se ne frega, sarà mica mamma quello il problema. Mamma mia. 600 euro al mese, ma di che parliamo? Marco da Mantova. Pronto? Dimmi, Marco, dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao Cruciani, saluto vediamo, solo te perché... Vediamo perché se a Mantova uno di intelligente chiama. Esatto, vediamo. Perché a Parenzo è inascoltabile, non si, no, può più ascoltare. È il cugino di Mauro da Mantova questo. No, non sono cugino di nessuno. Ma tu, ma Parenzo, ha visto tutte le botteghe chiuse che ci sono? Cioè, botteghe, quali dove botteghe? Dove vive? Sulla luna? Quali botteghe? Di quali botteghe le parla? Le botteghe dei commercianti, degli artigiani. E lui vuole fare chiudere quelle che, a Predappio poche, ma sono comunque un numero, esatto, che chiudono, che vendono, no, i cimeli vorrei fascisti. Che convertissero il loro lavoro vendendo... E cosa li vai a far fare? Possono vendere... No, possono vendere i bellissimi libri di Paolo Mieli sulla Seconda Guerra Mondiale. Ma sarai tu a decidere. Possono vendere i libri. Possono vendere le lettere dei condannati a morte, ma della resistenza, Parenzo, che sono, ma non possono non più tuo. Vendere cimeli che ricordano, ma il ventennio fascista. Esiste, possono esiste, convertire Parenzo. La loro, ma dai, ma la sei, loro, ma ti dovresti vergognare di quello che dici, ti dovresti vergognare. Che cos'è. Ma possono, ma lui, vendere, ma lui non vede tutta la gente disoccupata che c'è, tutti i commercianti, gli artigiani convertire che sono, la che loro, possono convertire la loro aziendina. Ripeto, tutti, vendendo cimeli, vendendo te. Libri, fermo lì, ma io fermo non posso lì, assumere. Fermi tutti. La zanzara. Meno 3, venerdì 15 settembre, una data che i parlamentari esordienti hanno cerchiato in rosso. Quel giorno matureranno il diritto alla pensione, che scocca dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura. Uno dei motivi, secondo i più maliziosi, sto leggendo un giornale di questa mattina, per cui alla fine non si è andati a votare dopo il referendum dello scorso 4 dicembre. Uno di quelli che, fra qualche anno certamente, incasserà la pensione, si chiama Mariano Rabino, 47 anni, presidente di Scelta Civica, anche detta Sciolta Civica, ex formazione di Mario Monti, un bancario di Alba, io non ci rinuncio. Ma c'ha ragione. Chiamiamo Rabino, ma vi prego. Mi prudono le mani. Ma devi smettere, Mi prudono le mani. Difendi la vergogna più grande che c'è in Italia. Hanno rubato. Hanno fregato i soldi per 50 anni ai cittadini italiani. Rubato soldi col vitalizio. E insisti a difendere questa porcheria. Ma perché fai scatenare? È un'ingiustizia clamorosa che va abolita. Sei così? Come perché? Perché mi sta sul coglione vitalizio, non i politici. Vitalizio. Rabino, chiamate Rabino che mi prudono le mani. No, chiamalo Mariano, perché se lo chiami Rabino, te lo spiego dopo. Pronto? Rabino? Ecco. Sì. Cruciani, Parenzo. E Parenzo, ciao caro. Carissimo. Come andiamo? Come andiamo, tutto Mariano? Tutto a posto. Senti, ma intanto specifichiamo che stiamo parlando con Rabino, che è un deputato, non Rabbino, che poi io conosco gli ascoltatori della radio, che sono, no, gli ascoltatori no, quelli che chiamano sono degli emeriti imbecilli. Siccome parleremo di vitalizi, poi dico, ecco il solito Rabino. No, Rabino non è ebreo ed è il cognome Rabino. Che c'entra? Ma nessuno ha fatto questo collegamento. No, lo dico perché gli imbecilli che chiamano qui, siccome hanno un quoziente intellettivo, diranno Rabino perché vuole vitalizio, Rabino esatto, perché vuole vitalizio. Invece è una B, non è ebreo ed è una bravissima persona. Vabbè, allora, non è vero anche che voglio il vitalizio, non è vero che voglio il vitalizio. No, hai detto che non vuoi rinunciare, ha detto. No, non ha ragione. Ho detto un'altra cosa, io ho detto che ho rinunciato al vitalizio regionale, mentre, ripeto, non rinuncio al trattamento di pensione. Bravo, vitalizio. È stato introdotto. No, non si vabbè, si chiama in un altro modo, ma è lo stesso. Va bene, dai. Ma ci intendiamo, perché questo invece è ancorato ai contributi versati. Scusami, tu dunque, sei uno di quelli che, essendo la prima legislatura, fra tre giorni otterrà il vitalizio. Non subito, capirai. Naturalmente, non subito, ma fra quando avrai i 65. Non si chiama vitalizio. Allora, sì, Mariano, sì, scusami, cioè dopo una legislatura, cioè dopo 4 anni, 6 mesi un giorno di legislatura, quando sarà avrai una pensione, non so quanto 900 euro lordi, 900 netti. Sì, se fai una sola legislatura, se ne fai una. Mamma mia, se vieni, quanti se vieni soldi. Rieletto no, allora io dico una cosa, secondo te non è un privilegio questo? No. Perché non è un privilegio? No, perché ho rinunciato ad andare avanti nella mia attività professionale. Vabbè, quello non te l'ha chiesto, non ti è stato ordinato dal dottore. Certo, bravo, però allora dobbiamo stabilire che la politica la fanno solo i ricchi. No, ma questa perché, è una questione falsa. No, non è vero assolutamente invece. Scusa, che cosa facevi tu? Che la mia autonomia e della mia libertà. Ma non è perché così. Ma come non l'autonomia è così? E la libertà sta nella testa, sta nella propria cultura, non nei soldi. Questi sono discorsi demagogici. Ma è al contrario, Tu pensi che solo i soldi possono dare l'autonomia, ma non è vero. Amico Cruciani, proprio perché io ho rinunciato a un vitalizio regionale, sono uno dei pochi. Ma quello è un altro discorso. Saremo 10 in tutta Italia. Io invece difendo l'attuale trattamento di pensione. Scusami, Mariano, c'è un elemento molto semplice. Se tu fai il paragone tra quanto prende una pensionata dopo tantissimi anni di contributi, dopo tanti. Aspetta, dopo. Cruciani, come no? Come no? Rispetto a quanto. No, perché tu stai prendi una del parlamentare del politico. Ah, per cui tu dici Cruciani, noi meritiamo di più rispetto al ruolo che abbiamo. Non sto dicendo quello, caro. E come no? Sto dicendo che tu non puoi mettere sullo stesso piano un dirigente, un laureato. Siete semplici cittadini come gli altri. Ma scusami. Sì, caro Cruciani, che siamo tutti cittadini, ma siamo diversi per le funzioni che svolgiamo. Ah, noi siamo diversi Cruciani. Dai cittadini normali, stai dicendo. No, dunque, meritiamo. Per le funzioni ti sta dicendo. Certo, è a tutela della ragione, Rabino. È a tutela della democrazia. Ma sono discorsi vecchi questi qua. Vecchio vecchi come il cuco. Vecchio sei tu e i 5 Stelle punto zero. Esatto. Caro Cruciani, noi abbiamo bisogno di persone che si dedicano alla politica con professionalità, rinunciando alla loro professione, facendo una scelta che dà alla politica. Quanto guadagnavi primato? 2500 euro. E che vuol dire? Dunque hai fatto un salto, diciamo. Ma cosa vuol dire? Ma certo che ho fatto un salto. Cioè, adesso guadagni di più. Ma che deve essere punito? In che senso è cambiato in male? Perché? Perché? È cambiata perché lavoro mille volte di più, lavoro 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Ma non risulta, non tu in particolare. Non risulta che i politici lavorino più dei professionisti, ma questa è vera demagogia. Lavora per le ore che fa il Parlamento in commissione. Quante presenze hai? Andiamo a controllare le presenze. Quante presenze hai? La questura. Il 30% delle presenze. Ma cosa sei? La questura. Il 30%, è assenteismo del 30%. Assenteismo del 30%. Un impiegato normale verrebbe cacciato. Un impiegato normale viene cacciato. Un impiegato non è un impiegato. Cruciani, visto che fai il 5 stellino. No, ma non c'è il 5 stellino. Perché Di Maio e Di Battista non rinunciano dicendo che è un privilegio medievale? Perché non rinunceranno? Spero che rinuncino. Non rinunciano invece. E quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. La battaglia contro di noi, che siamo persone serie, ma loro non rinunciano. No, però scusi, io non ho capito una cosa. Deve finire questa cosa che i parlamentari vengono trattati come poi tu dei dici, ladri. Poi tu dici, deve finire. Va bene, d'accordo. Stai pestando. Avete fatto la il vostro comizio, dai. Popò grillina in cui ormai fare il parlamentare è vergognoso, è bello se lo fai bene. Come è una cosa giusta. Tu dici abbiamo pagato i contributi, giusto? È giusto anche per questo. Ma i contributi non li avete decisi voi, sono sempre soldi nostri. Cioè avete deciso voi quanti contributi versare. Avete deciso voi quanti contributi versare. Non li avete. Senti, ma facciamo fare i parlamentari. È un privilegio. Anche questa pensione qua, caro, che non si chiama più vitalizio, è un privilegio. Rispetto agli altri è un privilegio. Secondo me i parlamentari dovrebbero essere pagati di più. Ah. Poi dovrebbero essere più perseguiti se rubano, ma dovrebbero essere pagati di più. Voi non è un privilegio. Tu continui a dire che rispetto ai cittadini normali non è un privilegio. Ancora c'è uno dopo 4 anni e 6 mesi di legislatura va in pensione, naturalmente non subito, e incassa 900 euro, non è un privilegio per tutta la vita, e anche i suoi eredi, non è un privilegio. È una vergogna rispetto a un cittadino normale. È una vergogna. È vero, caro Cruciani. Dovrebbe essere per tre anni e basta, non per tutta la vita e anche gli eredi, capito? Dovrebbe essere per tre anni e basta, non per tutta la vita. Assolutamente no. Ah, per tutta la vita 900 euro, anche se tu guadagnerai poi 2 milioni di euro dopo. Ma che c'entra? Come che c'entra? C'entra? Come no? Ma che cosa vuoi tu? Non ho capito. Dopo quattro anni e sei mesi uno non prende un euro di pensione, nemmeno un euro dopo quattro anni e sei mesi. Sei completamente contrario. Io incredibile, voi dopo quattro anni e sei mesi prendete la pensione, io sono incredibile. Stai cannoneggiando le istituzioni democratiche. È una vergogna. Sei una porcheria, Cruciani. Sei una porcheria. Bisogna. È come se bombardassi il Parlamento. Sì, ha ragione. Bisogna cancellare il vitalizio o la pensione, cancellare o limitare a pochi anni dopo gli antipolitici come voi. Io ho detto cancellare il vitalizio. Cruciani, tu vuoi cancellare le persone? Politica, tu vuoi cancellare le persone? Io voglio il pensiero unico, caro Cruciani. Sì, perché i grillini che sono l'anticamera della dittatura, non ho capito. Assolutamente sì, sono ridicoli. E che vuol dire? Sì, su questo ha ragione. Il tipo di scelta come viene fatta, gli iscritti, la democrazia. Cioè, con i grillini al governo c'è un pericolo di dittatura, secondo te? Vabbè. Ciao, saluti Mariano. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No, adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco, nella roba pazzesco. Io vendere erba, dove la prende? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. Il rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Cana, cana. Non ce l'hai. La zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, risorse della Boldrini battono Carabinieri 4-1. Negli ultimi giorni, 4 violenze sessuali da parte di cosiddetti cercatori di felicità o rifugiati per motivi umanitari, e una sola, molto, ma molto presunta, direi fasulla, da parte dei carabinieri. Caro David, ti potrei mandare, ti potrei mandare in studio a Milano, perché mi arrivano segnalazioni. Non c'è nessuno, fantasmi, ci sono delle piccole, delle due persone che c'era qui una si aggirano, una donna, una ragazza meravigliosa, bellissima. Così mi hanno detto, così mi hanno scritto, no, così, degli allupati dalla regia, sì, mi hanno segnalato perché c'è la webcam che c'è una ragazza meravigliosa in questo studio. C'è stata la signora Efebal nuda, col pisellino di fuori, figuriamoci se non possono venire altre persone. Una volta che abbiamo piacere a qualcuno, una volta che abbiamo raggiunto questo livello, cioè che è entrata qui nuda la signora, hai profanato il Santa Sanctorum della Confindustria, portandola. Però al di là di come interessa questo, ma chi è la signorina che era accompagnata? Sì, non te lo svelerò mai. Il mistero vero è che era accompagnata questa signora bellissima, mi dicono, dal signor Telese, così mi hanno detto. Telese. E qui il giallo si infittisce. Cosa ci fa il signor Telese con questa signora, questa ragazza meravigliosa, essendo credo notoriamente sia... l'amico Telese totalmente disinteressato a tutto ciò alla che figa, è l'altro te, se no, figa. Io non parlo mai così. No, in realtà trattasi, parli di una sua assistente, professionista, una giornalista, eccetera. Però, ragazzi, non entriamo in questa cosa che non interessa a nessuno. Quello che tu vedi nella webcam. Ho capito chi è, certo. Allora. No, ma posso farti sentire una cosa? Sgarbi? L'assistente. Oh. Perché io non ho un assistente? L'assistente. Ma ce n'hai, quando lavori nelle trasmissioni ce n'hai 7, 8, 10, 20, 30. 10, che cazzo 12, dici? 13, che tratti malissimo, anche. Che tratti no, malissimo. Benissimo. Sì, vedrà. Sì. Allora, benissimo. Sgarbi incrocia a un certo punto, nel suo tour siciliano, incrocia una signora. E dice: perché dovrei. Questa gli chiede: perché dovrei votare lei e non Musumeci? Senti. Poi che io porti via dei voti al centrodestra, capisco anche, insomma, tra me e Musumeci una ragazza sa bene chi scegliere. Cioè, voglio dire, che tu possa venire a letto con me è un'ipotesi, che tu vada a letto con Musumeci è impossibile. Tu sei costretta ad andare a letto con un uomo, costretta non data la forzatura. E gli uomini che lo propongono sono Musumeci o Dio. Lei lo sa che si tirerà dietro tutta una serie di polemiche sul maschilismo imperante. No, non è quello. È che tu parlavi del voto, dice lei porta via voti a Musumeci. Il suo movimento, lei. Io porto via voti amorosi a uno che è meno amabile. Il voto è come darsi, no? Io do una cosa. Allora, io direi di andare. Comunque, ragazzi, mi avete sentito prima? Adesso io ho lasciato cadere la vicenda di Rabino, che tu hai difeso no, a spada tratta. Voglio, ti prego, voglio che chiamino Mariano. No, perché non ho capito. Perché si crea, ti ho spiegato, l'equivoco. Ma è Rabino. No, chi telefona è stupido. Dice, no, ecco, già se tu dici è Rabino, uno dice, ah, ecco, chiama ora davanti. Il Rabino vuole i soldi. No, è un deputato che si chiama Rabino, con una B non c'entra, non è ebreo. Quindi chiamalo Mariano, per cortesia, col suo nome di battesimo. Se lo chiami Rabino, crei un cortocircuito. La gente che chiama è stupida, lo capisci o no? Allora, ragazzi, la realtà è questa: che hai difeso una persona che non considera il vitalizio barra pensione un privilegio, certo, e per questo ti devi vergognare di fronte all'Italia intera, così, di fronte così, a una casalinga, così. Una vecchietta che prende 600 euro dopo quando 40 anni. Io non ho mai visto una vecchietta. No, mai, mai. Quando mai hai visto una vecchietta? Cosa parli di vecchiette? Mai. Che mi sembri dalla vostra parte. No, ma francamente mai, non l'ho mai visto. Anche lì, perché si collegano sempre con delle vecchie? Me lo fai capire? In questi giorni lo sto guardando, adesso qui è tutto spento, non funziona un cavolo qui. sempre da accendere. Però quando guardi dalla vostra parte c'è sempre una vecchia giunta incazzata collegata. Ma tutte ste nonnine qui, ma perché non vanno a fare da mangiare? Ogni volta che tu ti colleghi c'è sempre una nonna. Sempre una nonna. Ma lo sai arrabbiata. Perché? No, lo sai sempre perché? C'è. Ma lo sai perché c'è la nonna arrabbiata? Lo spiego. Le nonne non erano arrabbiate, non erano così livorose. Io non ho questo ricordo delle nonne, è un ricordo straordinario di gente materna, dolce, che ti racconta le favole. Perché dalla vostra parte ci sono sempre queste vecchie incazzate? Perché? È diseducativo. I bambini, quando pensano agli anziani, pensano a gente che è risolta, che ha già fatto una vita, no? Che è tranquilla, è in pace con se stessa, che si prende cura dei nipoti, che prepara le migliori prelibatezze. E invece le vecchie di dalla vostra parte sono sempre incazzate. Perché? Perché? Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Comunque è vero, è incredibile. Così, facci caso, ci sono vecchie scatenate, fanno quasi paura, ma sembrano, ma io non l'ho mai visto, io della nonna, delle nonne, ho un ricordo davvero amorevole, anzi che parlavano anche con voce bassa, erano rassicuranti le nonne. Queste sono vecchie incazzate, acide, ma perché? Sempre così, mai una bella nonnina elegante che ad esempio ti porta una tazza di tè e ti dice tesoro, cosa ti posso portare? Aspetta. Ti ho preparato i maccheroni al pomodoro, quelle sempre che urlano quelle vecchie di dalla vostra parte, perché? Lo spiego io, se mi fai dopo questa tua prolusione te lo spiego. No, ma è una riflessione, no, lo sai perché? Te lo dico io, perché il pubblico di dalla vostra parte di Rete 4 è un pubblico anziano, in parte, in larga parte anziano. Se tu metti la vecchietta incazzata con Renzi, col governo, ci hanno rubato la pensione, i negri, eccetera, è fenomenale, cioè attiri pubblico. Sì, no, l'unico ma... elemento è quello, ragazzi, sono dei geni, tu li bistratti, tu li tratti male, no, sono dei geni, come sono dei bambini piccoli, quello piccolissimo. Dici, non guarda la televisione. Una vecchia dalla vostra parte? Mio figlio, quello più piccolo, che ha 3 anni e mezzo, tra poco 4, quando le vede dice: ma papà, ma le nonne in genere non sono così? Io dico: tesoro, no, queste sono le vecchie dalla vostra parte. Ah no, metti via, metti via. Cioè ha paura di quelle vecchie lì, ovviamente, perché non si riconosce in quel, no, in quell'immaginario. Ogni tanto in quel... c'era una col bastone, te lo ricordi la vecchia, quella là che era stata malmenata dai cosi? Capito, sì, la vecchietta quella cioè, aveva anche sì, ragione, però andava, della sua. Andava lì e urlava contro chiunque, no, contro vabbè, Librandi. Quella... Librandi sei una merda. Faceva tutto così. Vabbè, che cazzo no, è? Ancora stato quella, già, ho dato il catarro verde. Però dico, vabbè, basta, perso... fammi sentire qualcuno, ti prego. Adesso hai già parlato abbastanza. Fammi sentire qualcuno. Sto anche zitto, sono pagato uguale. No, sto anche zitto. Raffaele da Pistoia. 6 minuti zitto. Riprendo alle 20:18. No, Raffaele, dai. Sì, ciao. Alle 20 no, 18. aspetta, dobbiamo basta, chiamare una persona. Aspetta, Raffaele, dimmi. Sì. No, volevo dire due cose. La prima in riferimento a quella signora social di destra, socialista di destra, che probabilmente le pensioni proprio non l'ha proprio istituite Mussolini, comunque. Beh, comunque l'Inps, lui ha rielaborato un sistema che già esisteva, comunque. E poi non è detto che abbia fatto una cosa giusta, fare le pensioni con questo sistema qui. Vabbè, poi il discorso degli stupri, giustamente. Io condanno assolutamente bianco, nero, questo rosso, è scontato, dai, allora? È scontato. Però allora? non dobbiamo neanche sottovalutare certe violenze che alcune donne fanno anche sugli uomini. Ma quello che cazzo perché c'entra, scusa? Ma cosa c'entra? Tu stai parlando degli stupri delle donne sugli uomini, le violenze delle donne sugli uomini. Ah, cosa c'entra? Non esistono? Ma ragazzi, esistono, ma sono in una percentuale per mille motivi che non stiamo qui a enunciare, esatto, che riguarda perché, il testosterone, la natura, eccetera, e tante cose. Ma no, sono ma piccole. Io dico stupri a livello di testa. Non ma che c'entra gli stupri a livello di testa? Ma quella è un'altra cosa. Gli stupri delle donne sugli uomini che ci sono, fisici parlo, dell'altra roba non mi interessa. Gli ma stupri, come altra roba non ti interessa? Ma che vuol dire lo stupro? Lo stupro mentale delle donne sugli uomini, ma di che parli? No, di cosa stai parlando? Che ci sono donne che prendono gli uomini, se le rigirano come vogliano e poi le mandano, cioè questi non esistono queste cose qui per ma voi? Che c'entra? Ma se tu come ma c'entra? Che gli uomini che rigirano le donne, lo stupro delle ci sto dicendo quelle che li pigliano per il culo gli anziani, che rubano bravo, i soldi. Bravo, vabbè, bravo. Ma che c'entra? Dai, Raffaele, mi fai venire due coglioni il latte alle ginocchia, questo, due coglioni questo, così questo, con questo ragionamento. Questo non c'entra niente. Ciao Raffaele, va ciao, bene. Ti saluto, poi, ciao. Ciao, basta. No, basta, finito, basta. Io farei un'incursione, caro David, a un bar di dov'era sto bar telese? Il bar di parla un po'. Avigliano Maratea. Cosa Avigliano fa Maratea. Lì, che si deve svegliare. Sta qui, sta lavorando qui, viene qui, lavora qui, brava, lavora qui nello studio, brava, parla, apre le porte, fa l'inferno. Meritevole, molto bene. Lascia brava, le porte aperte. Anzi, non l'ho detto prima, è un ottimo acquisto. Guarda, Telese. Non volevo. Allora, Avigliano Maratea. Avigliano Maratea. Umberto Avigliano. Che fa? Che c'è? Ti faccio sentire il catarro. No, ma sputa pure. Sputa. Allora, Avigliano Maratea, un pasticcere fa una torta con la figura di Hitler sopra. Un cliente l'ha voluta così. Umberto Avigliano Maratea, chiamiamo, ti prego, chiamiamo. Però devi stare calmo, chiamo. Devi stare calmo. Devi stare calmo. Sì? Sì, qui Radio 24, buonasera. Radio 24. Come sta? Come sta? Guardi, no, io sono un amico del titolare. Me lo passa, me lo passa un attimo? Ho risposto un attimo perché stanno arrivando centinaia di... Lo capisco, mi chiamo Cruciani, mi chiamo Cruciani. Sì, Cruciani, la conosco. Me lo passa, Umberto? Sì, ecco, lo sta arrivando, glielo passo subito. Molto gentile, arrivederci. Magnifico, magnifico. Giuseppe Cruciani, Radio 24. Pronto? Umberto, buonasera, come stai? Non c'è male. Tu sarai sormontato, sarai massacrato di telefonate, o no? Ci capite, ma possibile che uno dopo avere una torta diventa così importante? Ma scusa, non ho capito. Allora, spiegami una cosa. Innanzitutto, tu sei fascista? No. Sei nazista? Figuriamo, figuriamoci. No. Sei simpatizzante di destra? No, io ho due nipoti musulmane. Insomma, ma tu ti rendi conto? Due nipoti musulmane, addirittura? Una è sposata a Tunisi, l'altra in Marocco. Ma ti rendi conto? Ma scusa, ma che sono, ma sono italiane? Sì, italiane, italiane. E che sono diventate musulmane? Sì, sì, sì. Cioè, come hanno... Ma una storia meravigliosa questa. La famiglia mia, Avigliano, è la famiglia, capito... multietnica. Ma vanno in giro col velo? Sì. Ma è meravigliosa, è stupenda questa cosa qua. Ma scusa, ma tu sei contento che due si sono sposate a Tunisi e sono diventate musulmane? Sì. Ma dice, se lo vogliono, se stanno bene, se stanno bene. Sono felice. È stata qui due mesi adesso in villeggiatura, da me viene qui. Tutta coperta? Sì. Ha lavorato pure al bar con me, mi ha dato la mano al bar. E al mare come andava? Al mare come andava? Al mare come andava? Coperta? Col vestito, sì, ma non lo trovi una cosa? Ma non lo trovi una cosa agghiacciante questa cosa qua, che non si scoprono la testa? Vabbè, che che al mare non si mettono il costume? Ma è una scelta loro, è una scelta. Se lei è felice così, perché sei sicuro che è una scelta? Sì. Ma tu che cazzo dici? Sei sicuro che è una scelta? Brava, è una scelta anche. Vabbè, Umberto, io voglio sapere una cosa: chi è che ti ha commissionato sta torta? Delle persone di Maratea che lavoravano in un ristorante e che dovevano fare uno scherzo, una festa, dice, una sorpresa a questo chef. E mi hanno chiesto questa torta così. Ma non questi che sono simpatizzanti di destra? No, sono bravi ragazzi, assolutamente. Non saranno anche bravi ragazzi, però intanto... Sei sentito un po' a disagio a disegnare? Chi è che l'ha disegnata la testa di Hitler? No, abbiamo fatto un'ostia, l'abbiamo scaricata da internet. Ah, avete preso così una specie di copia e incolla fatto? Sì, no. Sicuramente nei prossimi giorni qualche vantaggio ce l'avrai da sta storia, o no? No, c'è qualcuno pure che minaccia di incendiarmi, di ammazzarmi, di farmi cose. Addirittura? Non tutti sono d'accordo. Ma hai paura? Hai paura? No, sono sincero, io sono una persona tranquilla, assolutamente. Ma scusami una cosa, io voglio capire una cosa. Quando qualcuno ti ha commissionato questa cosa, tu non hai avuto un attimo, dici, però stiamo facendo una torta, Parenzo, con la faccia del signor Hitler. No, appunto, io mi sarei rifiutato di farla, io perché capisco. Perché per me, lei ha fatto benissimo. Dimmi. Allora, se la torta me l'avesse ordinata un'associazione, una fondazione, cioè dobbiamo fare un raduno italiano, allora non l'avrei fatto. Che bisogno aveva di mettere la sua arte al servizio del Terzo Reich? È questo che io dico. No, tu stai sbagliando a dire una cosa del genere. Cioè, ma amico mio, ma lei che magari è anche un sincero antifascista, perché raffigurare quel mostro di Hitler su un'opera, allora, su un dolce? Allora, perché... quando lo trasmettono per Rai 3, fanno i film sul Terzo Reich. Ma quelli sono documentari. Quelli sono documentari di storia che spiegano il maiale, spiegano i nostalgici. Ma che dici? Non ha una famango per Rai 3, allora. Ma quali nostalgici? Quelli sono documentari che servono a mettere in luce la storia. Ce ne porta a noi. Ma questo qui è stato uno scherzo, cammina. È stata una cosa quella. Quanto hanno pagato? Non era da esporre, però almeno. Lo scherzo di resti privato. L'errore mio è stato quello. Bravo. L'errore mio è stato quello di esporre, ma purtroppo la mia è una pasticceria. Ma che errore? Lei per me. Ma quale errore, Umberto? Devi rivendicare quest'opera d'arte. Lei per me può fare anche una torta dove c'è un organo genitale maschile o femminile. Non mi interessa, però lo tenga per sé. Perché devi mettere in vetrina la faccia di Hitler su una torta? Era una cosa... Si manda un messaggio equivoco. Il pomeriggio era per le 15, io l'ho messa verso le 3, è stato un paio di ore. Male. Scusami, Umberto, quanto l'hanno pagata? circa 37 euro, 30 euro, non mi ricordo. Mazza, oh, sei caro, beh, poco, per Cruciani, per i suoi 52 anni vorrei regalargli 51, una torta 51, vero, a forma di vagina. È possibile? Gliela puoi fare, per cortesia? Come regalo personale, non si può fare. Cioè Hitler si può fare e la torta per Cruciani a forma di vagina non si può fare. Vabbè, sei un bel tipo anche tu, però, eh. Se questa torta sarebbe stata offerta in una festa nazista, allora sì, avete ragione voi. Quella era una cosa privata, se la sono mangiata fra di loro. Vabbè. Anzi, hanno affondato il coltello nella faccia di Hitler. Sai quanta gente l'avrebbe voluto affondare? Questo sai, questo è stato qui ironico, non lo vedete, no? Bello il coltello, coltellato in testa al Führer. Bellissimo. Ciao caro, ciao un bel, grazie, ciao. Saluti, ciao. Vi invito, se passate da Maratea vi invito al bar. Beh, mi sembra come minimo, mi sembra un classico, minimo, mi sembra un classico. Ciao, amico mio. Ciao, ciao, okay, ciao. Saluti, ciao, professore, ciao, ciao, ciao. Arenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'anima. La zanzara. Io sogno un mondo dove Parenzo vive in una palazzina al secondo piano, dove al primo e al terzo ci vivono questi cercatori di felicità e non marocchini, sporchi, gente che puzza, che cucina l'impossibile, spezie, odori vari, eccetera, stupratori e compagnia bella, gente che davanti alla sua porta caga e si pulisce per strada con le foglie, con la fontanella lì sul marciapiede. Questo sogno, tanto a Parenzo va bene, no? A Parenzo va bene tutto quello che è l'opposto di quello che vuole l'italiano medio. Ti piace un mondo così? E vivici in un mondo così! Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presento la zanzara. Ciro Napoli, che non è il presunto figlio di Parenzo, nato, con sembra, la dalla relazione posso dirti, con non c'è una stata napoletana. Comunque, vabbè, ma perché? Siccome molti chiama... dicono che è nato Ciro, ma non ma è Ciro da Napoli. Chi è nato? Ma sai che è una diffamazione aggravata, cattiva, violenta inutile. Ciro, è vai. Violenta. Ciro, certo. Vai, Ciro. Pronto? Adesso dirà ciao, dimmi, papà, questo no. Dimmi, Ciro, dimmi. Buonasera, volevo soltanto Sente niente, Ciro, non si sente, parla più forte, dai. Allora, volevo fare soltanto una domanda al dottor Parenzo. Sì, vai. Posso? Vai, però veloce, soprattutto con l'audio migliore. Qual è il motivo per cui... Viva voce, auricolare. Viva voce. Non si sente la mazza, dimmi, allora dimmi. Mi senti? No, poco, dimmi. Dio. Volevo sapere da Parenzo per quale motivo lui deve lavorare 40 anni, 45, sì, e c'è qualcuno che deve lavorare 4. Bravo, mezzo, bravo Ciro, bravo, questo hai ragione. A che cosa? Ecco l'altro, Arrabino, che butta lui deve lavorare 40 Mariano, anni per avere 1.200 euro di pensione con i contributi, e uno che fa politica 4 anni, 6 mesi e un giorno 900 euro. Questa è la vergogna, è inammissibile. Lui invece dice sì, non è un privilegio, Parenzo, no, capito? Rabino una... dice beh, bisogna preservare la funzione del parlamentare, no, è una vecchia scusa, voi è un privilegio, punto e basta. State bombardando, siete no, come basta, i nazisti che questa... bombardavano nazisti, no. Sì, voi siete come i nazisti praticamente. Cioè bombardate le istituzioni democratiche. Comunque continuate così. Allora ragazzi, fermi, poi vi ritroverete tutti. Solo ciao, con, ciao, con ciao, internet, ciao, con la rete, ciao. Allora, io voglio chiamare però quel professore tutti che si chiama sono. Bianchi, professore in un istituto tecnico di Carrara, e che sventolava su un monte noto per essere stato il luogo di una strage dell'SS nei confronti dei partigiani, sventolava la bandiera della Repubblica Sociale Italiana, questo signore, capito? È stato denunciato, cioè, si chiama Manfredo Bianchi, è un professore di costruzioni, non so, in un istituto tecnico di Ferrara. Fascista sembra tutto d'un pezzo. Come on, chiamiamolo. Pronto? Professor Bianchi? Sì, sono qua. Tutto a posto? Le bandiere come vanno? Dove le ha messe le bandiere? Le bandiere adesso sono piegate e riposte. Ma vogliamo ricordare che bandiera sono? Quelle che lei espone? Quelle di cui parliamo sono le bandiere di combattimento della Repubblica Sociale Italiana. La bandiera dello Stato della Repubblica Sociale Italiana era la attuale tricolore. Se il fascismo fosse in toto da ripudiare, bisognerebbe bruciare anche la bandiera nazionale. Vabbè, non bisogna bruciare nessuna bandiera, bisogna non esporre quella vergogna lì, semplicemente, no, che ha portato lutti, morti e persecuzioni. Calma. No, sono calmo per niente. Una bandiera che rappresenta l'onore, l'unico onore sostenuto dai militari italiani nella vergognosa vicenda. Dell'armistizio. Allora, Manfredo Bianchi, lei è un professore di scuola superiore, è un ingegnere. Radiatelo. Ha un istituto di Carrara che si chiama Zaccagna, giusto? Radiatelo dalla scuola. Ma chi può insegnare? Dove l'ho portato? Dove l'ha portato? Sopra un monte, no? Dove c'è stato un eccidio? L'ho portato sopra due monti. Sì. Uno si chiama Monte Sagro, sì, e l'altro si chiama Brugiana, è sul comune di Massa. In quella zona ci fu un eccidio di partigiani da parte dell'SS. Sì, ma il mio gesto non aveva nessun collegamento. Che schifo. Subito, che vergogna che questo signore. Subito. Che vergogna. Non mi fate parlare. Ma no, la faccio parlare. Perché lei continua ad esporre questa bandiera della Repubblica Sociale Italiana? Allora, intanto, essendo io estimatore del fascismo. No, ma lei è fascista, è già questo. Lei è fascista, per semplificare, sì, si può dire che sono fascista. È già però, questo, siamo fuori però, dalla legge, ma non importa. No, già non questo vero, basterebbe. Non lei non conosce la legge. E basterebbe questo. Aspetto, però. Parlava. Un attimo solo. L'articolo 3. Sì. Non mi interessa l'articolo. Transitorio al suo cervello. Non mi interessa niente. Un attimo. Se il signore continua a offendermi, io. Un attimo solo. È anche mussoliniano lei? Sì, certo, sono un ammiratore di Mussolini. Cioè, lei pensa che. Lei pensa che. Uno dei migliori. Anzi, il miglior statista italiano di tutti i tempi. E Hitler invece che ne pensa? Hitler, non si può parlare apertamente di Hitler, lo sa per lì. Ma ci vede qualcosa di positivo in Hitler? Sicuramente Hitler qualcosa di positivo sul piano economico prima della guerra per la Germania lo fece. E i 6 milioni di morti sono stati 6 milioni oppure è una cifra esagerata messa in giro? Non lo so. Lei vorrebbe un ritorno del fascismo in Italia? Degli ideali del fascismo di una certa concezione e che ha fatto di positivo il fascismo? Il ritorno, una quantità sterminata di opere pubbliche, l'avvio della presidenza sociale, le pensioni, le leggi razziali, l'istituto per l'assassinio Matteotti, l'assassinio di Matteotti, l'uccisione di Matteotti, l'uccisione di Matteotti, le leggi razziali, le leggi razziali, l'uccisione di Matteotti. Rifiuto di parlare con chi non mi fa parlare. La domanda era: cosa ha fatto di buono? Ho fatto un esempio di fascismo, però light. Ho fatto un fascismo radiofonico light. Un attimo solo. Il regime fascista aveva un progetto sociale inclusivo dove nessuno rimaneva indietro come mai più ne abbiamo visti. Per cui era meglio prima, dice lei, no? Dal punto di vista sociale sì. Più luce o più ombre nel fascismo? Tra l'altro molta più luce, molta più luce, certo. Vabbè, io penso uno può rivendicare tranquillamente, certo, può rivendicare qualsiasi cosa. In Germania sarebbe già in galera sto qua, per fortuna. Allora io può rivendicare qualsiasi. Il professor, io non condivido nessuna delle cose che ha detto il professore alla scuola non dovrebbe neanche condividere i metodi di quello lì che c'ha a fianco. Ma guardi, sono metodi non fascisti, continua così, perché a differenza cosa? Nel fascismo io sarei finito in una camera a gas prima su un treno piombato. Le spiego questo, caro cosiddetto ingegnere. Le spiego questo. Nel fascismo io sarei finito. Nel fascismo io sarei finito su un vagone piombato e poi in un campo di concentramento e poi fumo in un camino. Quello. Invece sono qua in democrazia. Allora, professore, vi do un'ultima possibilità di parlare correttamente. C'è un'ultima possibilità. A parte che lei, professor Bianchi, io voglio dire una cosa. Non chiamarlo professore, fammi solo una cortesia. Come ho detto prima, le ombre di quel periodo sono molto piccole rispetto alle luci e sono molto piccole anche rispetto alle nefandezze che sono successe in Italia dal 45. Cioè, secondo lei i partigiani sono più assassini dei fascisti? Sì. Questo insegna dove? Quale scuola, scusa? È una scuola superiore a Carrara. Spero che il ministro Fedeli sia all'ascolto. Io insegno progettazione di costruzioni. Secondo lei, per esempio, la Repubblica di Salò era un progetto straordinario? Sì. Cioè, una cosa bellissima. Più che altro fu l'unica possibilità che ebbe l'Italia di mantenere in alto il proprio onore che era stato distrutto dall'armistizio di Badoglio. Dunque, Parenzo, la cosa è molto semplice. Questo signore per te deve finire in galera e non può parlare. Per me invece, che sono... Deve essere azionato per legge, ma guarda che non dico una cosa strana, sai. Può dire quello che vuole in piena libertà. Non puoi insegnare uno così, non puoi insegnare. Un piccolo spazio. Ah, scusi, scusi se non l'abbiamo mandata all'isola di Ponza, al confino, o Ventotene, scusi. A proposito di questo, se non l'abbiamo mandata a Ventotene, al confino, dopo averla riempita di botte come avveniva negli anni venti, scusi. Rispetto alle punizioni che camminavano ai partigiani, oppure che venivano... grazie a loro lei può dire ste stronzate, pensi un po'. L'isola di Ponza era una villeggiatura. Guarda. Ah, una villeggiatura. Lei ha paura delle denunce che sono arrivate dappertutto? No, perché sono tutte infondate. Dunque se ne frega. Come diceva lui, se ne frega di queste... Sì, me ne frego. Se ne frega di queste denunce che sono arrivate da parte dell'AMPI, da Regione Toscana. Come si diceva, ce ne freghiamo della galera. Sì, continui con l'errore, così aumentiamo i reati. No, ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Poi? E finirà presto in galera, il professore non insegnerà. Sei bravo a continuare le rime. Hai visto come te l'ho fatta così? Proprio, no? Lei oltre che antipatico, è anche stonato. Male lo sa qual è, signor, non so come si chiama. Parenzo. Che lei è così. Per denaro, non per ideali. No, lei si comporta perché è troppo come, poco, sono pagato per così, sentire le sue stronzate. Si fidi? Come per io, denaro? No, sono pagato troppo ideali, poco per sentire le sue stronzate. Cosa sono gli ideali? Io sono il pagato troppo poco per sentire le sue stronzate. Ha capito? Ma quale portafoglio? Comunque, visto che il signor Parenzo continua a insultarmi, io a questo punto chiudo. No, professore, però scusi. Ma che spiacevole, è stata piacevolissima. Ma perché, scusi? Ma durante il fascismo io sarei finito in una camera a gas, perché dice così? Noi non abbiamo usato lo stesso metodo. Ma io non ho usato il metodo che avrebbe usato lei. Scusi, però, professore. Ma lei, ecco, sto simulando quello che avveniva negli anni 30 con lei. No, ma io parlo solo a differenza di quel che avveniva negli anni 30. Ma non c'è da discutere con un antidemocratico. Non ci può discutere. Negli anni 30 potevo discutere io, ma negli anni 30 mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati perché era ebreo. Mio nonno negli anni 30 è stato cacciato dall'ordine degli avvocati perché era ebreo. Bianchi, l'ha capito bianchi, o no? Aspetti, ma bianchi. Che bianchi, neri è questo? Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Allora le devo fare una contestazione. Va che dov'è. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Breve guida alla gestione d'impresa 2017. Oggi manager e imprenditori hanno a che fare anche con le responsabilità aziendali per lo smaltimento dei rifiuti. In questo campo ancora poco esplorato ci sono quattro mosse vincenti. 1. Rispettare le normative. 2. Scegliere fornitori indipendenti. 3. Tenere tutto sotto controllo. 4. Affidarsi a un professionista di fiducia. Un esempio è Omnisist, azienda che da 20 anni si occupa di gestione dei rifiuti in modo indipendente. Non ha impianti o trasportatori propri. Seleziona il meglio secondo le tue esigenze. Come cliente Omnisist hai un sistema di tracciabilità totale di ogni smaltimento, da consultare quando vuoi. E in più un area manager fisso che ti segue H24. Puoi anche affidare la gestione rifiuti in total outsourcing a Omnisist con la formula Total Relax. Richiedi un'analisi tecnico-economica gratuita su omnisist.it. Omnisist, il valore della responsabilità. Ho appena comprato un PC Lenovo. Ora ho 2 settimane di tempo. Per fare cosa? Ma per comprare anche un monitor e ricevere il rimborso da Lenovo. Tu acquisti un PC o notebook, ad esempio della famiglia Yoga o tra quelli indicati su lenovotirimborsa.com. Poi hai 2 settimane per acquistare anche un bel monitor LCD e vedere tutto meglio. E Lenovo ti rimborsa fino a 50 euro, anche se acquisti prima il monitor e poi il PC. Fino al 23 dicembre, nelle migliori catene di elettronica. Scopri come su lenovotirimborsa.com. Hai mai pensato che i tuoi risparmi possono aiutare le aziende a crescere e a costruire un paese migliore? Con borsadelcredito.it puoi. Investi con sicurezza nelle aziende italiane e sane e ottieni un rendimento del 5%. Cambia il tuo modo di investire. Scegli borsadelcredito.it. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La zanzara è una cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Ancora riesci ad andare con tua moglie? Io, certo. Io tutte le volte che la vedo, come la tocco, a me mi viene il cazzo duro. Dopo 17 anni, con mia moglie, appena mi sfiora, io ho sempre il cazzo duro. Ecco, benissimo. E li voglio bene e la amo. Signori, scusate, io non ho tempo da perdere mezz'ora e 40 minuti per una pugnetta, con tutto il rispetto. Se devo perdere mezz'ora e 40 minuti, lo faccio per una scopata, non per una pugnetta. Con tutto il rispetto, professore, con tutto il rispetto. Questa era indirizzata, caro David, al professor Bossi, che ieri ha detto che per fare una sega bene, per farci bene una sega, bisogna in realtà essere lenti, bisogna perdere in teoria anche 30-40 minuti, lentezza e poi altre cose che non mi ricordo, caratteristiche fondamentali per farsi bene una sega, per masturbarsi intanto, bene. Intanto è notizia dell'ultimo minuto, mentre cosa? Quel fascista professore che stavamo incredibile, intervistando, incredibile. Simpatizzante anche del nazismo in alcuni per certi aspetti. Notizia dell'ultimo minuto, ha commesso un reato nel momento in cui è stata approvata alla Camera la legge che prevede il reato di propaganda del regime fascista. Sì, è stata approvata? Camera è stata 200, approvata? Ti do questa notizia. Reato di propaganda del regime fascista. Sì, della Camera con 200 su un voto favorevole. Sei sicuro? Ergo, sei sicuro? Io non do mai notizie false. Ergo, ergo, non sono, diciamo, non però, è il Davide, titolo guarda di che questo, solo la Camera, c'è il Senato ancora. Non è ancora, non è definitiva ancora. Siamo d'accordo, certo. Non ho detto, è definitiva ho detto, ancora. Reato di propaganda del regime fascista. Sì, della Camera con 261 voti favorevoli. Quindi alla Camera è passato. Mamma mia. Quindi stia attento quel signore lì, perché abbiamo il corpo del reato. Certo, lui non potrà essere incriminato perché non la è legge, propaganda quindi... fascista è reato. La Camera approva, ora la legge passa al Senato. Detto, ancora non detto, è finita. Amici miei, amanti della libertà, tifosi della libertà, tifosi soprattutto in questo caso del buon senso, direi, anche se non mi appartiene. Ancora c'è un baluardo di resistenza al Senato. Aspettiamo, non passerà questa legge liberticida. Non passerà, caro Fiano. Io ti ho incontrato diverse volte a Milano. Sei una persona sicuramente per bene, ma stai facendo una cazzata. State diventando la barzelletta d'Italia. Vi siete fatti prendere per il culo dalla Russa in Parlamento. Risentiamo la Russa. Fatemi risentire la Russa. Vi siete fatti prendere per il culo in Parlamento dalla Russa. Ma chi se ne frega? Sentiamo, risentiamo la Russa. Faccia il passo dell'oca. Cammini pure col passo dell'oca. Che è vietata non solo la distribuzione, eccetera, eccetera, ma anche la gestualità che richiama. Per cui, da ora in poi, state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Quando camminate, state attenti ad accentuare il mento. Se voi accentuate il mento, potete essere passibili di 2 anni di galera, perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna! E intanto, mentre pronunciava queste parole, faceva anche un saluto fascista. Molti si scandalizzano, si sono scandalizzati già sul web, naturalmente, per il fatto che ci sia un parlamentare della Repubblica, caro Parenzo, che fa il saluto fascista in Parlamento. Certo. In Parlamento. Certo. Ragazzi, è folklore, basta. Basta, è folklore. Siete superati dalla storia, voi siete superati dalla storia. È folklore. Lasciate la gente vendere su internet 4 cose. Il mio amico Veschini, ti abbraccio, vecchio fascista di Perugia. Ti abbraccio fortissimo, lascialo vivere. Ma sì, ma chi se ne frega? Abbraccio anche un vecchio comunista, non è un problema. Ti abbraccio, devi essere libero di fare il tuo lavoro, di guadagnare le tue 1000 euro. Sei contro gli operai, Parenzo, sei contro l'impresa, la piccola impresa, le pochissime imprese che lavorano su questo, i piccolissimi artigiani, pochi artigiani che producono queste cose che sono folklore. Lasciali perdere, lasciateli perdere. Fiano, ancora c'è il Senato, non hai vinto, non hai vinto, Fiano, non hai vinto. Gaspare d'Arezzo. Gaspare, sì, ciao. Mamma mia. Ragazzi, io oggi non ce la faccio, guarda, mi avete fatto incazzare troppo con questa cosa qua. Gaspare, dimmi. Sì, ciao. Dimmi, Gaspare. Volevo dirti che io ho una pasticceria, volevo testimoniare solo questa cosa. Dimmi, che pasticceria almeno, hai, dove? Ad Arezzo, almeno una Arezzo, volta bene. diciamo una volta al mese. Via. Posto, come dire, di vecchi fascistoni, Arezzo, bisogna dire la verità. Ti piace? No, non mi piace. Ti posto esalta, di vecchi fascistoni. Ti piace? Posto bianco, di amministrazioni bianche, di democristiane. Posto dove era, credo, dove nacque Fanfani, se non sbaglio. Signor Fanfani, di Arezzo. Comunque, vabbè, questa piccola cosa, ogni tanto potrò dare il mio contributo storico. No. Bravo, no, bravo. Oltre a dire vaffanculo, eccetera, posso dire anche... Io so, per esempio, tu non lo sapevi, che Fanfani era di Arezzo. Era di Arezzo. No, c'è anche un certo professor Gelli vicino a Arezzo. C'è anche un certo professor Gasperi, dov'era De Gasperi? Dov'era Gelli Castiglion Fibocchi, però vicino a Arezzo, mi sembra. Castiglion Fibocchi, dice Telese qua accanto, sì. Gaspare, dimmi allora. Ma sta sempre lì Telese. Ma cosa sta aspettando me che finisco? Saranno cazzi miei. Dove andate a cena poi? Occhio Telese, che quello non paga. Tra Castiglion Fibocchi e Laterina è un triangolo interessante. Sì, beh, la terina piccola stoccatina la Boschi, che ha dato alla signora Boschi. Senti la risata smargiassa dell'ottimo Gaspare, Telese, dimmi, grande dimmi, forma. Dimmi, l'ottimo dimmi. No, ma dove andate a cena? Scusa, ma saranno cazzi nostri. Lascia parlare Gaspare, no, che è più interessante. Ma paghi, no, di Gaspare non frega un cazzo. Ma paghi, io non pago mai, ricordati, non ecco, pago poveretto, mai. Povero Gaspare. Telese, povero Telese, deve pagarlo. Dimmi, se dimmi, Gaspare dimmi. Cutolo sarà questo qui. No, non sei mutolo, si diceva, non sei ignorante, mutolo, no, mutolo, coglione. No, volevo... La TBC dei fascisti, i fascisti gli hanno attaccato... Io prendo la TBC dei fascisti, a differenza di... Dai, Gaspare, su. Questa trasmissione mi ha attaccato la tubercolosi. Dimmi, dai. Allora, no, volevo dire che, a parte il fatto che di Fanfani ne abbiamo avuti due, perché anche il... Vabbè, dai, Gaspare, però, che volevi dire? Questo tossisce. No, è solo un dato di fatto che... Fai il pasticcere, no? Hai detto. Sì, almeno una volta al mese capita... di fare torte con foto del duce, crocifisso. Questo è buono, questo è molto buono, direi. Cioè, allora, non, tu una volta, più di una volta al mese, fai le torte con la faccia del duce. Vabbè. Quindi sì, ordini. È moda. Ma infatti, domani, lo sai che mi faccio fare una torta? La porto qua con la faccia del duce. No. Bellissimo, una torta con la faccia del duce. Domani porto qui, dopo l'approvazione della legge, una torta con la faccia del duce. Mi sono rotto i coglioni. Voglio farmi denunziare. Tossisce, dai. A me i fascisti mi fanno venire a tubercolosi. Precisa, Gaspare, precisa. No, volevo dire, prima che Parenzo mi dia ancora del mafioso. No, non è. Io ragiono solo dal punto di vista commerciale. Cioè, a te non te ne frega niente, potresti fare pure, che ne so. Cioè, un ti mostro diventa qualsiasi reato. No, ma chi se ne frega. Scrive Simone Di Stefano volevo, di Casa Pound, grande Cruciani, no, che camerata. Cazzo, signor col cazzo. Simone Di Stefano appena scritto, scritto grande Cruciani. Io non appartengo a nulla e a nessuno, appartengo solo a me stesso. Stanno svelando, non c'è nessuna cosa da svelare, storie, assolutamente no. Ma ti dico una cosa, ragazzi, anche se mi assaltate voi di Casa Pound, non so chi altri. Certo, un nuovo mito sei diventato tu e quell'altro genio lì della Moritz, quell'altro genio lì. Parenzo mi detto Parenzo, anche te, pazzo, anche Telese è d'accordo pazzo con me, anche Telese è d'accordo sì, con ma me, la torta no, ma la torta volevo ma dire non che ha io nessun senso. Dimmi Gaspare, posso, parla, volevo dire dai, che io non faccio il censore, ragiono solo da allora? Commerciale, sì, non espongo chiaramente, non è che le vado a mettere in vetrina il cliente, le faccio già trovare incartate. Vabbè, le fai comunque, fai, non ti fai problemi a fare le con dei limiti, però volevo precisare e quali una sono cosa i limiti per Parenzo. Se mi chiedono una frase, voglio dire antisemita, il cartello, vale, però è uguale, cioè, dai, quindi Hitler però sì, uguale, la frase antisemita no, però è uguale, distingua, dai, non fare adesso il a precisino. A questo punto metta sulla torta il bambino del ghetto di Varsavia con le mani alzate, così vabbè, tanto chi se ne frega. Gaspare, no, lo stesso, ormai, perché metti la figura di Mussolini, che comunque è stato un assassino, è stato il fautore di un sacco di porcherie, per cui è uguale. Non possiamo nascondere dietro un dito, voglio dire. Gaspare, per me fai bene, però non fare il precisino, non metterei quanto viene una torta Hitler? Com'è no, una torta tarifario? Mussolini, a quanto una torta la fai? Mussolini, una torta Hitler? Ma perché ne so? Come quella, ma 3 chili. La fai pagare di più rispetto a una torta normale? C'è la foto, l'immagine, quindi ma fai pagare di più. Falla pagare, euro? Falla pagare di più. Euro? Vabbè, ciao Gaspare, ciao. Il vecchio partigiano dell'Ampi, incazzato come una biscia, chiama le sezioni di Forza Nuova. Sentite. Pronto? Sì, buonasera, Forza Nuova. Sì, buonasera. Senta, io sono un partigiano dell'Associazione Partigiani. Ma non vi vergognate? Ma sono andato a fare in culo tu e tutti i partigiani. Senta, di merda. Senta, no, ascoltami, ascoltami. Prima mandate, fate questi manifesti fascisti dove un uomo nero violenta una donna bianca. Adesso addirittura la marcia. Marcia alla vostra testa. Certo, andatevene a fare in culo. Pronto? Sì, pronto, mi dica. Parlo con Forza Nuova? Con Forza Nuova? Come al solito, fascisti maleducati, non vi vergognate. Ma chi sei, brutto stronzo? Ma vai a cagare, pezzo di merda. Brutto stronzo tu, io sono un partigiano dell'associazione. Perché è successo? È la donna bianca che è stata violentata a Rimini, gli è stato asportato l'utero. Ti rendi conto di questo? È una cosa orribile, è una cosa orribile. Fa schifo questo, ma fa schifo il manifesto di Forza Nuova. Non si vergogna? Questa cosa è vergognosa, eh. Lei dovrebbe insegnarmi certe cose. Lo stupro, ascolta bello, sei giovane. I manifesti di Forza Nuova. E allora divertitevi con le vostre stupide ronde. Così vi divertite, perché? Una manganellata di qua, una manganellata di là. Vi piace manganellare? È bellissimo manganellare. Ma lei lo sa che, ma magari no, cioè, mi dica una cosa, l'ha detto a manganellare. Ma lei dice seriamente che è bello manganellare? Io manganellerei tranquillamente tutti quelli che si oppongono allo Stato, alla nazione, alla patria, a tutti coloro che sono traditori, tutti coloro che attentano ad essa, io li manganellerei volentieri. Quindi lei è anche violento, manganelliamoli tutti. Ragazzi, se uno ascolta questa trasmissione può anche immaginare che l'Italia sia piena di fascisti. Effettivamente sì, è vero. Esatto. Forse è così. Ipotesi. Fatemi squillare quel numero che vi ho detto, fatemelo squillare. Va a chiudere, chiudere, chiudere. Pronto? Pronto? Pronto? Rispondi, vigliacco, rispondi. Uno che ha detto che le americane sono venute in Italia, chiudi per scopare baracca, i carabinieri. Chiudi la baracca, chiudi la baracca, la notizia buona del giorno, cioè, la propaganda fascista è reato, la Camera approva una legge passata al Senato. Che schifo. 261 valorosi un attentato contro la libertà. 122 attentato contro la libertà. Soggetti. Mamma mia, la democrazia che astenuti. Stappa la bocca alla democrazia. La propaganda fascista è reato. Cesare la propaganda fascista Cesare è reato. Pronto? Dimmi Cesare, dimmi. Sì, buonasera, volevo parlare con il dottor Parenzo. Io no, non ho intenzione di parlare più. Il contratto mio è scaduto. Qui c'è scritto chiusura alle 20:48. No, non c'è parlo scritto, con c'è nessuno. Scritto 21 c'è scritto. No, qui a Roma c'è scritto 48. Non parlo, Cesare, mi dimmi, dispiace dai. Finito il contratto, caduta la penna. Tu, finita la voce. Veloce, dai, veloce, dai. Le darò di lei non per rispetto, ma perché voglio mantenere le distanze. Bene, lei uguale. Si deve vergognare. Eccolo qua. Per aver paragonato lo stupro di un branco di animali che ha fatto violenza ad una coppia su una spiaggia al rapporto sessuale di un carabiniere con una donna ubriaca senza alcuna violenza. È stato tutte bottane. Ma questo sei pazzo. Meno male che c'è però scusa, c'è una cosa. Tu hai detto giustamente quattro bestie che hanno violentato una coppia, d'accordo. Però hai dato per scontato. Aspetta, Cesare, non ti preoccupare. Cesare, scusami, ascolti. Tu hai dato per scontato, però, che lì ci sia stato un rapporto. Hai parlato semplicemente di un rapporto. No, non ho dato per scontato, Cruciani. Hai dato per scontato che non ci sia stata violenza. È stato accertato dalla visita ginecologica. Che cosa? C'è stato un rapporto. Fa più bella figura se chiude qua. Ma non c'è stata cosa che no. Questo non è stato accertato. Stata ma che vuol dire? Di che vuol dire che non c'è stata violenza? Violenta. La violenza non può essere anche in un rapporto. Non è per forza. Sì, ma non c'è. Scusa, ti voglio spiegare una cosa, Cesare. È assurdo paragonare, su questo puoi avere ragione, ma quando tu dici che non c'è stata violenza, sbagli, perché la violenza non è semplicemente. Non è solo quando uno viene brutalmente pestato o c'è lo stupro che ti spaccano l'utero. La violenza è semplicemente quando non c'è la volontà, quando non c'è il consenso dell'altra persona. Dai. Le ragazze hanno chiesto loro di essere accompagnate a casa. Ma che c'è? Tu stai dicendo che E quindi? Riprendiamo domani, ragazzi. Ma no, ma rinchiudetelo domani. Ma rinchiudetelo. Fermi todos. Ragazzi, se finì per oggi, se finì. Meglio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.